Faccio l'alba tutte le mattine con una penna in mano, sì. Se nella testa c'è il suono d'un piano, il peso della rima m'ha svegliato. Oggi come ieri è così che è cominciato. In questo contesto io non faccio testo, faccio testi. E tu non mi interessi, faccio solo i miei interessi. In fase di scrittura metto l'armatura, sono sotto il peso della rima e quindi c'è da aver paura. Ciò che scrivo non depone a mio vantaggio, ma mi riempie d'orgoglio lo scemo del villaggio. E il testo ci fa nozze con ogni mio pensiero, su questo foglio bianco che sposa il mio umore nero. Non dimentico chi c'è sempre stato, ma sono identico a chi mi ha calpestato. Resto miletico, nella testa un golfo di stato. Ecco vista rima come stima d'attestato. Abbiamo le bombe, il dito sul pulsante, il cuore più cervello, la casa di rullante, il peso delle rime, risulta devastante, attenta a ciò che dici, o morire all'istante. Questo pezzo l'ho scritto stando zitto, le rime hanno un peso e crollano come soffitto, sotto il martellare di parole in conflitto, per me parla l'orgoglio, ascolta ciò che ho scritto, ogni parola ha la sua importanza, è messa a posto giusto, non è falsa testimonianza, quindi pesa tutto ciò che dici, pensa e conta fine a 10, pensi di avere amici, bene credici, ho rime che danzano nella mia testa, pesantite dalla buffata della festa, quindi stiamo a sentire, se sto zitto non vuol dire che non abbia un cazzo da dire, e che se parlo faccio danni, per questo lo registro e ve lo tramanderò negli anni, e riascoltatemi quando volete, odiatemi tutti, dalla mia bocca solo verità rutti. Abbiamo le bombe, il dito sul pulsante, il cuore più cervello, la casa di rullante, il peso delle rime, risulta devastante, attenta a ciò che dici, o morire all'istante. Fenomeni del rap italiano, come no, uno è tunisino, l'altro pakistano, con la trap vogliono fare il rap, tutti sti ragazzetti figli del patatrack, rapper di moda con la coda di paglia, vestiti a festa con le mutande e la vestaglia, in giro per i club di tutta Italia, ma mi trovi al pub con altra gendaglia, o che cammino tra gli esperti di sto cazzo, mi ripeto, io mi piego e non mi spezzo, il mio rapper preferito lo vedo allo specchio, tutti i giorni Ness è sempre più vecchio, vicino al mezzo secolo, cazzo vuoi che se la tiri, se iniziamo a 20 anni tocca storia, chissà dove eri, sono 7 nel 2017 a te, puzza la bocca di latte, lo ciucci dalle tette. Abbiamo le bombe, il dito sul pulsante, il cuore più cervello, la casa di rullante, il peso delle righe.